Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune settimane fa a Messina c'è stata un'operazione condotta dai carabinieri di quella provincia chiamata Pista di Sabbia. In questa operazione sono state svelate e quindi di conseguenza anche sventate corse di cavalli illegali. Ci sono stati 20 arresti, erano coinvolti anche 3 carabinieri, e questa operazione ha portato anche al sequestro di 10 stalle ed oltre 70 indagati. In realtà questa è soltanto la punta di un iceberg, di un fenomeno spesso sottaciuto, che è quello delle corse clandestine. Tutto parte con un cavallo trovato morto lungo le strade di Messina, e non a caso proprio Piste di Sabbia è un romanzo di Camilleri del 2007 che racconta e narra proprio di una storia simile a quella che poi è diventata realtà. Per parlare di questo fenomeno noi abbiamo il piacere di avere il colonnello dei carabinieri Claudio Domizzi, che è il comandante provinciale di Messina, che potrà un po' raccontarci meglio nel dettaglio questa operazione. Buongiorno colonnello. Sì, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Ecco, innanzitutto colonnello, io vorrei cercare di capire, ma di che tipo di fenomeno stiamo parlando? Perché ho l'impressione che sia un po' sottovalutato nell'opinione pubblica. Sì, innanzitutto volevo soltanto una precisazione, forse un lapsus prima, lei ha parlato del coinvolgimento di 3 carabinieri, forse si voleva riferire no. A 3 veterinari. 3 veterinari, per carità di Dio, sì, per... 3 veterinari, chiedo scusa all'arma e ai nostri radioascoltatori, a volte i lapsus servono per rinforzare anche il ringraziamento nei confronti delle forze dell'ordine. Certamente, dunque le dirò che si è trattata di una operazione significativa, perché non si è trattato soltanto di contrastare le singole corse, ma di mettere a nudo l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere. Infatti il capo di imputazione sono proprio queste, associazione per delinquere finalizzata al maltrattamento di animali e all'organizzazione di competizioni illegali tra cavalli. Ecco, vogliamo dire che dietro queste competizioni c'è la criminalità organizzata? Certamente c'è la criminalità organizzata, in alcuni casi direttamente, in altri casi indirettamente. Comunque c'è un avallo e un beneplacito di delle organizzazioni che operano nei vari settori territoriali, perché possano svolgersi queste competizioni. C'è un giro ovviamente di scommesse clandestine, scommesse che vengono fatte tra i gruppi rivali che competono, tra i singoli proprietari, tra le singole squadre, ma anche ovviamente tra i numerosi partecipanti. Scommettitori, ecco, colonnello, ma infatti una cosa che io non riesco a capire, o meglio, riesco a capirla e riesco a capirla soltanto se si fa ricorso all'omertà e alle difficili condizioni in cui spesso ci si trova nel sud, ma se c'è un giro di affari così imponente, diciamo che le stime parlano di circa 1 miliardo di euro all'anno, se ci sono gruppi che competono, se ci sono tifosi, se ci sono persone, se queste corse avvengono anche alla luce del sole, perché avvenivano anche lungo la spiaggia, no? In circuiti paralleli proprio alla spiaggia. Ecco, mi domando, ma è possibile che nessuno riesca ad intervenire nel momento stesso in cui avvengono? O è possibile che nessuno denunci? Per esempio, ma la polizia municipale, ma dov'è? Guardi, io intanto le dico che sono state interrotte numerose gare. Competizioni. Quindi molte competizioni sono state interrotte, non senza difficoltà, perché ovviamente, come avete anche visto dalle immagini diffuse sul circuito televisivo, si trattava di grossi gruppi in movimento che si avvalevano anche di una cinturazione di centauri, di giovani di volta in volta reclutati che a bordo di ciclomotori perimetravano intere aree delle fasce, di alcune fasce urbane interessate. scortando letteralmente questi cavalli in corsa e presidiando gli incroci per segnalare anche la presenza delle forze dell'ordine, quindi molto difficile intervenire, ma si è intervenuto parecchie volte e molte di queste gare sono state interrotte. Ecco, l'importanza però di questa operazione è che non ci si è accontentati della contestazione dei singoli episodi e quindi del contrasto immediato alla singola competizione, si è arrivati proprio alla configurazione di un'associazione per delinquere vera e propria, che ovviamente innalzerà anche il livello di pena. Certo. Io ringrazio davvero per questa testimonianza il colonnello Claudio Domizzi, comandante provinciale dei Carabinieri di Messina. Lo dico spesso, se non ci fossero spesso i carabinieri, se non ci fosse l'attivismo e l'attività dell'arma, ho l'impressione che questo paese andrebbe ramengo ancora più velocemente di quanto sta già andando. Quindi ringrazio il colonnello per il suo intervento. Grazie a Peter Bescapè in regia e a Laura Faggin in redazione. Roberto Carullo, vi auguro buona giornata.